di Bette Bao Lord, Luna di primavera, un romanzo della Cina. Mondadori editore, traduzione di Silvia Stefani. Prologo. Prima dell'inizio era il caos. Un'esplosione di suoni impossibile a udirsi. Un'esplosione di forme impossibile a vedersi. Il buio seguì al buio per tempo immemorabile. Quando venne il momento, dal caos emerse il gigante addormentato Pan Ko. Svegliandosi, si incollerì per quel vuoto e lo frantumò con un colpo. Quel che cedeva veleggiò verso l'alto, mentre il resto sprofondò, creando il cielo e la terra. Il respiro di Pan Ko divenne i venti e le nuvole, la sua voce il rombo del tuono, il suo occhio sinistro il sole, il suo occhio destro la luna, i capelli e la barba le stelle, e il sudore della sua fronte, la pioggia e la rugiada. I parassiti del suo corpo divennero uomini e donne, e poi il mondo cominciò. Tre divini sovrani apparvero per aiutare l'umanità. Insegnarono agli uomini dai capelli neri ad accendere il fuoco, a pescare, cacciare, a domesticare gli animali, a coltivare la terra. Ciascuno regnò per migliaia di anni. Poi il caos ritornò, poiché i loro successori erano principi di natura inferiore. E senza ordine gli uomini non conobbero più la pace e furono come bestie. Infine, l'imperatore giallo salì al trono, riportando la civiltà. Da lui il popolo del Huangho imparò a estrarre i minerali e a coniare le monete, a guarire i malati, a registrare la saggezza degli uomini e il passare del tempo. La sua imperatrice trasmise il segreto del tessere la seta. Dopodiché, per oltre 4.000 anni, gli imperi prosperarono e morirono, le dinastie salirono al potere e caddero, i clan fiorirono e avvizzirono, una stagione dopo l'altra, un anno dopo l'altro. E sempre più temuti delle tigri o delle inondazioni o degli spiriti erano i tempi di caos, Luan, in cui i re non erano re, né i sudditi sudditi, i padri non erano padri, né i figli figli. I mariti non erano mariti, né le mogli mogli, i fratelli non erano fratelli, né gli amici amici. Nei giorni del grande saggio Confucio, il principe di Wu, ricercando la gloria, parlò così al suo primo ministro: Costruisci una nuova capitale per il mio regno, che rispecchi il cielo e la terra, dove soggiorneranno virtuosi uomini di lettere e splendide donne, e in tempi di pericolo i sudditi e i beni saranno al sicuro dal nemico. E così, in un sito fra colline lussureggianti e pianure fertili, dove i fiori sbocciavano per 10 mesi l'anno, la città fortificata di Xuchao fu costruita e cinta da un fossato. Aveva 8 porte sull'acqua e 8 sulla terra. Sulle colline una corona di pagode e nella valle traforata di canali, giardini dalle infinite prospettive. 2.000 anni passarono come le stagioni. Poi, durante il regno di Wanli, un povero letterato e sua madre, in viaggio verso Pechino, dove egli sperava di superare gli esami imperiali, fecero sosta a Xiuqiao. Ma la donna si ammalò. Prima di morire, ordinò al figlio di seppellirla nel primo posto adeguato che trovasse e di proseguire incontro al suo destino. Lui ubbidì. Il sito era vicino a uno stagno dove viveva una coppia di fedeli anatre mandarine. La tomba fu segnata con un ramoscello di cipresso. Nella capitale il letterato si fece onore, ma mai in 27 mesi affiorò un sorriso sulla sua faccia. Dispiaciuto per il dolore del suo servitore, l'imperatore indagò. Colui che si era distinto agli esami imperiali spiegò. Tutti quelli che udirono furono commossi. L'imperatore lo mandò a servire a Xuchao perché potesse essere vicino alla sua cara madre. Arrivato là, egli vide che il luogo del suo riposo non era stato disturbato e che il ramoscello era diventato un piccolo albero. Ordinò che i cancelli della sua casa fossero costruiti a sud dell'albero e intorno a esso i muri del giardino. Storia di Clan. Mentre il sole ardeva a occidente, Luna di primavera dormiva. La sua stanza era fresca, ombreggiata dal tetto a tegole verdi che descriveva un arco aggraziato sulle mura antiche. E lei se ne stava rannicchiata placidamente nel suo letto, nel bozzolo delle tende di seta rosa e fra il profumo di canfora. Il suo respiro era impercettibile. Improvvisamente un raggio di luce, scivolando sotto la grondaia attraverso un'imposta aperta, trovò una fessura fra le tende e schizzò sul letto. Al suo tocco, Luna di primavera si agitò, tirandosi la coperta sopra la testa. Vedeva ancora lo scrigno di lacca rossa e cercò di riprendere il sogno, ma non ci riuscì. «Fiore di prugno!» chiamò, gettando via le coperte e mettendosi a sedere. «Perché hai lasciato le tende aperte? Stavo facendo un sogno meraviglioso e ora è finito!» Era stato un sogno eccezionale, magico e pauroso. Servi erano giunti da lontano con uno scrigno di lacca rossa. Sul coperchio vi erano strani caratteri d'oro che nemmeno lo zio anziano riusciva a decifrare. «È un dono per Luna di primavera», avevano detto i servi, avvertendola che doveva aspettare 3 giorni e 3 notti finché proprio all'ora della sua nascita lo scrigno si sarebbe aperto di scatto come una castagna arrostita. E lei aveva aspettato. Ma quando finalmente l'ora della scimmia si era avvicinata, il sole l'aveva svegliata. Ora non avrebbe mai saputo cosa c'era dentro. Ah, Luna di primavera sospirò. Doveva essere qualcosa di meraviglioso. Un nocciolo incantato di pesca che cantasse, forse. O una pozione che trasformasse i granelli di pepe in dolci. Oh, Fiore di prugno, non doveva lasciare le tende aperte, nemmeno un poco. Fiore di prugno? Ancora nessuna risposta. Luna di primavera alzò la voce. Fiore di prugno, ho finito il mio sonnellino. Tu non devi dormire quando io sono sveglia. Rispondimi. Aprì le tende. Non c'era nessuno nella stanza. Fiore di prugno, giochiamo a nascondino. Luna di primavera scese dal letto e sbirciò sotto. C'erano soltanto un ditale e una zucca, proprio sotto il punto in cui giaceva la sua testa, per cacciare gli spiriti. Luna di primavera si raddrizzò. E rimase ferma un istante, corrucciata. Poi, dopo aver infilato rapidamente i piedi fasciati in un paio di scarpine rosa ricamate e indossato il suo tacinpao, uscì sulla veranda che bordava il giardino del cortile del Cuore Saggio. Nel piccolo giardino non c'erano nascondigli. Così passò da una porta all'altra, guardando in ciascuna stanza delle 3 ali della dimora. Ma Fiore di Prugno non si vedeva, né nessun altro. Dove poteva essere la ragazza? Un'improvvisa paura accelerò il battito del suo cuore. Solo un serpente a 2 teste avrebbe potuto far allontanare Fiore di Prugno. A meno che, se Neve Fragrante l'aveva chiamata. Quel mattino Ciccia non si era lamentata di avere mal di testa? Forse Fiore di Prugno aveva dovuto servire sua madre al posto di Ciccia. Rapidamente la bambina scivolò attraverso il cancello del ventaglio, oltre il cortile dei bambù silenziosi che apparteneva alla famiglia del prozio numero 3, oltre i diversi cortili dei nipoti del venerabile, fino al ponte dell'andare e venire e al cortile delle virtù femminili. Mentre si avvicinava alle alte colonne rosse che segnavano l'ingresso alla sala, udì un ronzio di chiacchiere e l'acciottolio delle tessere del Mahjong. Per un attimo esitò. E se sua madre stava di nuovo perdendo con la prozia numero 3? Ma forse stava vincendo ed era di buon umore. Beh, risoluta, Luna di primavera si diresse verso la porta. Affacciata sulla soglia, si fermò ancora cercando di individuare Fiore di prugno o Neve Fragrante fra le nonne, madri, vedove, mogli, concubine, figlie, schiave e serve che vivevano insieme nei 30 cortili sotto i tetti ancestrali. Il suo sguardo passò rapidamente sulle 3 fidanzate e sulla zia di Tienzin, che con espressione concentrata stava dipingendo fiori su un ventaglio di seta. La donna non si accorse che lei la scimmiottava dietro le spalle, a beneficio della matriarca, né la vecchia vizzita diede alcun segno di averla notata, anche se tutti sapevano che non le sfuggiva mai niente. Seduta all'esatto centro della sala, aveva a ciascun lato una schiava dai lineamenti delicati e dai begli abiti, prova della ricchezza e del tenore di vita della famiglia. Con sollievo di luna di primavera, Neve Fragrante non era fra le giocatrici di Mahjong, con la prozia numero 3 che, a giudicare dalla sua faccia trionfante, stava sicuramente vincendo. Ma non c'era nemmeno traccia della schiava, e mentre i suoi occhi volavano da un gruppo all'altro, la paura fiorò di nuovo. Infine, vide la seta violacea che anni fa Neve Fragrante aveva scelto come suo colore preferito e che ora indossava esclusivamente. Stava ricamando vicino alla finestra occidentale per godere l'ultima luce pomeridiana. Luna di primavera scivolò attraverso la folla. Madre! La chiamò tirandole la manica. Madre! Neve Fragrante diede un colpetto a quella mano impertinente. Che fai, cattiva bambina? Entri come una folata di vento, interrompendo le tue parenti senza neanche un saluto? Tutti penseranno che ho trascurato i miei doveri. Farai ricadere la vergogna sui tuoi antenati. Luna di primavera chinò il capo. Perdonatemi, madre mia. Si voltò e si diresse lentamente verso la matriarca. L'attenzione della vecchia era concentrata sulla pronipote numero 5 che istruiva sulla condotta da adottare durante un'attesa felice. E ricorda, nessun cibo tritato per evitare che il bambino si inclini all'imprudenza. Luna di primavera aspettava di essere vista e nessun pensiero triste per evitare che il bambino sia contagiato. La matriarca annuì. E ora puoi andare a prendere il tè. E si voltò verso Luna di primavera. La bambina arrossì, ricordando improvvisamente di non essersi lavata dopo il sonnellino. La nonna se ne sarebbe accorta, naturalmente, sapeva sempre tutto. Ma non riuscivi mai a capire cosa pensasse, perché la polvere di riso nascondeva la sua espressione, come la maschera dipinta nascondeva la faccia della bambola che lo zio anziano le aveva regalato prima di andarsene. Quando la matriarca la guardava, Luna di primavera si sentiva sempre piccola come un seme di sesamo. Allora? La bambina deglutì più volte, poi si inchinò profondamente. Buon pomeriggio, nonna. Perdonatemi per non avervi reso omaggio quando sono arrivata. La matriarca sorrise, ma con le labbra ben chiuse, per non rivelare le gengive vuote. Sembri proprio agitata. Luna di primavera respirò, un po' più a suo agio. Che c'è, bambina mia? A quell'invito le parole sgorgarono fuori. Oh nonna, fiore di prugna non c'è più, non la trovo da nessuna parte. Come se a parlare fosse stato uno spirito, il vicino gruppo delle donne smise improvvisamente di cucire e chiacchierare, mangiare e giocare, per guardare verso di lei. Non dire sciocchezze, bambina. La matriarca non sorrideva più. Deve essere da qualche parte dentro la dimora, forse è nella tua stanza che ti cerca. Incapace di muoversi, Luna di primavera osservava la nonna che sorseggiava il tè e aveva l'impressione di essere inghiottita anche lei. Allora, c'è qualcos'altro? La matriarca aspettava e, non ottenendo risposta, insistette in tono più aspro. Parla, bambina, parla! Con voce tremante, Luna di primavera ubbidì. Ma nonna, non c'era quando mi sono svegliata. Ho pensato che fosse qui, ma non c'è. Deve essere successo qualcosa. Ho paura che... Luna di primavera esitava. Gli occhi della matriarca si erano ridotti a due fessure, frugando la stanza alla ricerca della genitrice responsabile. Subito, Neve Fragrante si alzò per fare il suo dovere, trascinando per un orecchio la figlia impudente verso la porta. Tutti gli occhi la seguivano. Nel silenzio si sentiva soltanto il tintinnio dei braccialetti di Neve Fragrante. Al sicuro, dietro le colonne, sua madre la sgridò. Ti impicci sempre degli affari della famiglia, Luna di primavera. Una brava bambina non fa mai domande tanto impertinenti. E le fece cenno di andarsene. Luna di primavera aprì la bocca per protestare, ma sua madre aggrottò la fronte in segno di sfida. Non c'era niente da fare. Chinò la testa e lentamente ritornò agli orologi della famiglia. Forse la nonna aveva ragione, la schiava era al suo solito posto. Ma non c'era nessuna seduta sullo sgabello dipinto. Controllò dentro il guardaroba di palissandro, aprì gli scrigni di sandalo, anche se tutt'al più potevano nascondere la scimmia del cugino numero 6. Alla fine si fermò, sedendosi a riposare sul kang di bambù della schiava. E se Fiore di Prugno fosse scappata, come la ragazza del vicino? Scosse la testa con decisione. No, non l'avrebbe mai fatto. I gigli dorati le doloravano e cercò di massaggiarsi i polpacci come le faceva sempre Fiore di Prugno, ma non aveva forza nelle dita. Si abbandonò stancamente asciugandosi una lacrima prima che cadesse. Era troppo vecchia per piangere. Non erano già trascorsi più di 2 anni dalla sua settima estate, quando per la prima volta le avevano legato i piedi con le bende. Aveva urlato e urlato mentre le torcevano le 4 dita più piccole sotto la pianta e la pianta verso il calcagno finché i suoi piedi erano rimasti quasi piegati a metà. È per il tuo bene, bambina, aveva detto sua madre. Per quanto tu sia bella, ricca, affettuosa, nessun uomo sposerà mai una donna coi piedi che ricadono con un tonfo sgraziato. Allora Fiore di Prugno l'aveva confortata bagnandole i piedi in acque medicinali, assicurandosi che non perdesse nessun dito a causa dell'infezione. Ogni giorno la schiava l'aveva portata sulla schiena fino allo stagno dei fedeli compagni, dove poteva riposare sulle rocce fresche e giocare con le carpe dorate. Improvvisamente Luna di Primavera si alzò, sorridendo. La grotta! Come mai non ci aveva pensato prima? Molto tempo addietro, Fiore di Prugno aveva detto che quello era il suo posto preferito per liberare il Ci. Forse era andata là e non si era accorta del tempo che passava. Scivolò rapida giù dal letto e andò fuori. Quando raggiunse la terrazza, sentì qualcosa e si fermò ad ascoltare. Ecco, lo sentì di nuovo! Un suono fievole come il fruscio di un passero. Fiore di Prugno! Chiamò ad alta voce. Fiore di Prugno, sei tu? Nessuna risposta. Girò con precauzione intorno alla piccola altura artificiale. Là, rannicchiata, la faccia alzata verso la padroncina, c'era Fiore di Prugno che si asciugò le lacrime col dorso della mano. Fiore di Prugno! Sussurrò Luna di Primavera. Non aveva mai visto piangere la schiava, se non ai funerali, quando tutti gemevano. Soltanto quel mattino non aveva fatto che sorridere perché le cugine fidanzate l'avevano classificata una bellezza di terzo grado, trovandole soltanto due difetti, la faccia rotonda e gli occhi vicini. Si chinò per sfiorarle la guancia, ma la schiava si ritrasse. Per favore, lasciami stare, piccola padrona, verrò da te fra poco. Ma che c'è, Fiore di Prugno, stai male? La madre chiamerà il dottore. No, non sto male. Allora perché piangi? Non piango, devo solo pensare un poco. Ma su che cosa? Oh, non ha importanza. Allora vieni con me a giocare. Fiore di Prugno scosse la testa. Ma devi, sei la mia schiava, devi fare tutto quello che ti dico. La ragazza chinò il capo. Sì, è vero, soltanto la tua umile schiava. Non aveva mai parlato così prima, qualsiasi cosa le avesse detto la sua padrona. Rapidamente Luna di Primavera le prese una mano e se la portò al cuore. Oh no, Fiore di Prugno, tu sei mia sorella. Scusami, ma ti ho cercata dappertutto. Cos'è successo? Dimmelo, ti prego. L'altra si limitò a scuotere la testa. Luna di Primavera si chinò su di lei, sussurrandole all'orecchio: È la nonna che ti ha fatto piangere. Shh! Fiore di Prugno mise una mano sulle labbra della bambina. Allora è stata proprio la nonna. Non dobbiamo parlare di lei. Non mi importa, dimmi subito. Luna di Primavera aveva alzato la voce. La schiava esitò, poi si strinse nelle spalle. La matriarca ha detto che andrò in un'altra casa. Così le lacrime di Fiore di Prugno non erano lacrime vere, dopo tutto, ma rituali, come quelle che si versano alle partenze. Luna di Primavera batté le mani applaudendo la sua recita, troppo sollevata per essere in collera. Come piangeva bene la schiava, era stata ancora più convincente degli attori mascherati da donna all'opera di Capodanno. Oh, ma è una splendida notizia, Fiore di Prugno, esclamò. La nonna ha scelto un marito per te. Sarai libera e sposata, e io... Si interruppe. La sua amica era scossa da singhiozzi silenziosi e nascondeva di nuovo la faccia fra le mani. Luna di Primavera era più perplessa che mai. Tutte le schiave venivano sposate prima dei 20 anni e Fiore di Prugno ne aveva già 17. Oh, perché piangi, Fiore di Prugno? Chiese alla fine. Ce lo aspettavamo. Potrai tornare qui a farmi visita, ti inviterò, prenderemo il tè in giardino e io... Tacque perché mentre parlava Fiore di Prugno era diventata stranamente calma e quando alzò gli occhi non scintillavano più di lacrime, ma erano opachi come quelli del cantastorie cieco. Tu non capisci, piccola padrona, io non mi sposerò. Ma mi hai appena detto, ho parlato di un'altra casa, non di matrimonio. La tua famiglia mi ha promessa come concubina al vecchio Ye. Ma Luna di Primavera ancora non capiva. Certo, la moglie del vecchio Ye era raggrinzita come un gambero cotto, ma poteva andar peggio. Fiore di Prugno poteva finire con Lo, lo zoppo, o col barbiere strabico. Il vecchio Ye era un letterato e molto ricco. Non piangere, Fiore di Prugno, ti prego, pensa alla dote che la nonna ti darà. Non sarai mai più povera, non dovrai nemmeno vendere una delle tue figlie. Il vecchio Ye è ricco, come noi. Gli darai un figlio maschio e tuo figlio sarà un letterato, certo. Passerà tutti gli esami imperiali, sarà il più illustre studioso ed entrerà persino all'Accademia degli Hanlin. E tutti questi onori saranno anche tuoi, e un giorno sarai la madre del patriarca. Il destino provvederà a tutto. Forse sarai addirittura più onorata di me, e allora tu mi inviterai a prendere il tè. Ma l'espressione di Fiore di Prugno non cambiava, e quando Luna di Primavera si fermò per prendere fiato, disse soltanto: Ti prego, lasciami. La sua voce era piatta come i meloni Co e altrettanto amara. Non posso restare con te? Ti prego, lasciami. Verrò con te per aiutarti a vestirti per la cena. A malincuore Luna di Primavera se ne andò, fermandosi dopo un passo o due per vedere se Fiore di Prugno aveva cambiato idea, ma la schiava se ne stava rannicchiata, immobile, accanto alla montagna in miniatura, gli occhi scuri come finestre chiuse per proteggere dalla luce. Luna di Primavera era decisa a capire, ma non osava disturbare ancora le donne. Restavano gli uomini del clan e i cugini. I ragazzi erano a scuola e comunque l'avrebbero presa in giro, uno per uno. Accantonò anche gli uomini. Il nonno era malato, suo padre a quest'ora stava studiando con il letterato Tang, i prozii erano inclini ad essere indulgenti con lei, ma nessuno lo sapeva avrebbe tollerato un'interruzione, tranne forse il giovane zio. Non era come gli altri e la prediligeva. A chi se non a lei aveva regalato un ventaglio con sopra dipinta una carta dell'impero al suo ritorno dall'Accademia Militare? Anche se Ciccia aveva detto a tutti che l'aveva fatto perché le macchie colorate e le linee scarbocchiate gli ricordavano la scarsa abilità di Luna di Primavera nel ricamo. La bambina si diresse rapidamente verso il giardino del cipresso che collegava i cortili interni ed esterni della vasta dimora. Al muro di marmo traforato si fermò e, dopo essere tornata indietro di alcuni passi, sedette sulla panchina di pietra all'ombra del tesoro del clan in attesa. Veniva qui quasi ogni giorno con Fiore di Prugno al suo fianco per origliare gli scolari del clan al di là della parete, cercando di interpretare i suoni che emettevano i ragazzi recitando tutti insieme ad alta voce, ma mai dalla stessa pagina. Lei sapeva che i principianti leggevano il classico dei tre caratteri e che i progrediti studiavano i principi di Confucio dai quattro grandi libri e dai cinque classici. E sapeva che gli scolari non capivano meglio di lei quel che salmodiavano. Il maestro non spiegava un testo finché non avevano imparato ogni parola a memoria. Naturalmente il maestro non avrebbe spiegato niente a lei, una ragazza. Eppure per Luna di Primavera i suoni dell'apprendimento avevano un fascino magico e si inventava delle storie mentre ascoltava. Oggi però non faceva attenzione, ma attendeva impaziente che apparisse un servo, uno che potesse inoltrarsi nei cortili esterni a lei proibiti e chiedere al giovane zio di venire da lei. Infine, quando vi fu silenzio nella classe, sentì un rumore di passi ciabattanti. Il vecchio giardiniere era venuto per dare aria all'allodola della seconda prozia. Luna di Primavera si alzò, agitando le mani. Vecchio giardiniere, ti prego, vieni! Nessuna risposta, e lei chiamò ancora più forte. Vieni, vecchio zio, ti prego! Il giardiniere continuò al suo solito passo, e quando infine la raggiunse, borbottò: Non sono sordo, ti ho sentita la prima volta, piccola padrona, ma perché dovevo sprecare del fiato per rispondere quando sarei arrivato qui presto? Hai ragione. Luna di Primavera sapeva che non doveva offenderlo se voleva che le facesse un piacere. I vecchi servi, diceva sua madre, devono essere rispettati, non comandati. Gli diede un colpetto sul braccio muscoloso e abbronzato. Devi risparmiare le forze per potare il giardino. È quel che faccio da quando sono venuto qui, 4 generazioni fa. Annuì come se avesse segnato un punto a suo favore. Lei si inchinò profondamente. Vecchio zio, hai servito qui più di chiunque altro, il clan è onorato. Lo sguardo di lui si addolcì e lei si inchinò di nuovo, tenendo gli occhi bassi. Vecchio zio, mi faresti un piccolo piacere, non ti porterà via tempo. Poiché lui rimase zitto, proseguì: Ti prego, vada al giovane zio e digli che devo vederlo, è urgente. Sorrise speranzosa. Come può esservi qualcosa di urgente per una bambina come te? Borbottò lui. Ti prego, prima che sia troppo tardi. Ah, sei sempre di fretta. Se non corri tu, vuoi che corrano gli altri. Ascolta un vecchio. La natura conosce le risposte. Non nascono frutti quando le piante vengono costrette a fiorire nella stagione sbagliata. Così come possono le mie gambe raggelate dagli anni correre come quando ero nella mia primavera, eh? Anche se me lo chiedi tu. Hai pensato a cosa accadrebbe a questo cuore stremato? Luna di primavera cercò di frenare la sua impazienza. Hai ragione, vecchio giardiniere, non c'è fretta, vai pure piano, baderò io alla allodola. Lui si accarezzò la lunga barba sottile, considerando l'offerta. Perché non me l'hai detto prima? Non avremmo sprecato tutto questo tempo, sarei già andato e tornato. Ma tu parli troppo. E se ne andò, trascinando i piedi, scuotendo la testa e facendo oscillare la barba. Sicura che fosse partito, Luna di primavera sedette di nuovo sulla panchina. Con cura mise la gabbia di bambù accanto a sé e rimase a osservare l'uccello che, dopo aver saltellato da un vasatoio all'altro, si fermò sul minuscolo dondolo per trillare la canzone della sera. Quando l'ultima nota rimase sospesa nell'aria, alzò il capo verso Luna di primavera e si inchinò come per invitarla a cantare. Lei intonò la prima canzone che aveva imparato su un uomo del villaggio di Fiori di Prugno. La neve cade il primo dell'anno, lampade rosse si accendono a ogni porta, tutte le famiglie sono unite, ma lui è andato a costruire la grande muraglia. L'uccello si inchinò di nuovo e aveva aperto il becco per cantare ancora quando tornò il giardiniere con talento nobile. Come appariva severo il giovane zio quando non sorrideva. Per un attimo Luna di primavera dubitò che fosse il caso di parlargli, ma non c'erano alternative. Si morse il labbro, saltò in piedi e si inchinò rispettosamente. Grazie per essere venuto, zio. Grazie per la cortesia, vecchio giardiniere. Di niente, giovane padrona. Inoltre avevo promesso di mostrare al padrone i progressi che ho fatto in sua assenza con l'allodola. Zio e nipote rimasero a osservarlo mentre si chinava ad aprire la porticina della gabbia. L'uccellino rizzò il capo e saltò sulla veranda. All'improvviso volò in alto e sparì oltre il muro del giardino. Il giardiniere ridacchiò al loro stupore, poi raccolse la gabbia. Pazienza, solo un poco di pazienza, miei giovani amici. L'allodola mi aspetta vicino alla piccola montagna. E i due lo videro sparire attraverso il cancello del trifoglio. Volevi parlarmi, Luna di primavera? Chiese Talento Nobile. Lei alzò gli occhi su di lui, così alto e diritto, nella lunga veste di seta da ricordarle le bandiere che a Capodanno pendevano dalle aste nell'atrio degli antenati. Non sapeva come cominciare. Bene, che c'è, nipotina? Luna di primavera respirò a fondo. Giovane zio, perché vi siete tolto l'uniforme? Era meravigliosa. Lui rise, così andava meglio. Lo prese per mano. E mentre rispondeva alla sua domanda, lo fece sedere accanto a sé sulla panchina. Beh, sembra che tu e mio padre siate gli unici a pensarla così. Secondo gli altri del clan, l'uniforme è adatta solo a un barbaro o a un uomo della classe inferiore. Perché, giovane zio? Certo, avrai sentito dire che col buon ferro non si fanno i chiodi e con gli uomini buoni non si fanno i soldati. È vero, zio? No, non credo che sia sempre così, ma io la penso diversamente dagli altri. Sorrise come se avessero un segreto in comune. Tu mi hai mandato a chiamare, giovane nipote, che c'è? La stretta incoraggiante che le diede la mano l'aiutò a parlare. Vi prego, oh vi prego, ditemi perché il vecchio Ye si prende la mia schiava. Il sorriso scomparve di colpo. Il giovane zio si era trasformato nel più severo dei generali. La nostra famiglia lo ha promesso e dobbiamo onorare il nostro impegno. Ma Fiore di Prugno è così infelice. Piange e piange, non ha mai pianto prima. Lei non è come le altre. Non possiamo dare gemma di miele o fiore benedetto. Si mettono in agitazione ogni volta che uno straniero viene dal cancello posteriore. Può darsi, ma non assolverebbero il nostro obbligo. Oh, non è giusto. Le brave ragazze non vengono date ai vecchi come concubine. Talento Nobile si alzò di scatto. Lei non osava più muoversi. Come mai era tanto in collera? Fece diversi passi verso il muro di marmo, poi si fermò e rimase immobile come un'acrobata sul punto di fare il suo numero più difficile. Oh, vi prego, supplicò, non andate via. E trattenne il respiro finché egli non tornò a sedere e le riprese la mano. Attese un attimo prima di parlare. Nipotina mia, tu non puoi capire, e io non dovrei discutere queste cose con una della tua età, ma anch'io sono stato il più giovane e non è facile vivere all'oscuro di tutto. Si schiarì la gola. La sera scorsa il secondo prozio andò a una festa del vecchio Ye. Perse ogni giro di Go. Quando era quasi l'alba, il vecchio Ye propose un'ultima partita. Se il secondo prozio avesse vinto, si sarebbe ripreso tutto. Ma se avesse perso, Fiore di Prugno sarebbe diventata la concubina del vecchio Ye. Il secondo prozio accettò e perse di nuovo. Per Luna di Primavera la spiegazione non aveva senso, non era giusto. Perché il vecchio Ye dovrebbe avere quel che è mio? Perché, nipote, Fiore di Prugno non è tua, mormorò lui quasi tremante. Appartiene alla casa dei Chang. Sei abbastanza grande da sapere che niente di quel che possediamo è soltanto nostro. Ma i suoi occhi si riempirono di lacrime e pur sbattendo le palpebre una le sfuggì e cominciò a rotolare giù per la guancia. Lui si irrigidì e si alzò. Luna di primavera, devo andare ora. Era inutile insistere. Si alzò anche lei e fece un inchino formale, poi rimase a guardarlo finché lui non scomparve dietro il muro di marmo. Aveva ragione, lei non capiva.